chi lotta per i diritti sociali, che sia un attivista sindacale o che sia un attivista sociale, un esponente di movimenti, oggi si trova in una condizione molto difficile, perché è facile incorrere in reati con sanzioni molto pesanti, e sicuramente il decreto Salvini, ormai legge, costituisce un bagaglio molto pesante che ormai ci ritroviamo nel nostro sistema giuridico. C'è da dire che chi lo aveva preceduto aveva già aperto la strada, in particolare il decreto Minniti, Orlando, sia sulla questione di sicurezza, ma che toccava il tema anche delle libertà sociali, la questione dei DASPO che è stata estesa dai tifosi e poi via via a tutte le figure di disturbo nella quiete e nel decoro cittadino. Ma il decreto Salvini fa un salto di qualità. Il fatto di aver messo in campo il reato di blocco stradale, che è una delle manifestazioni tipiche sia in campo sindacale che dei movimenti sociali, il fatto di aver trasformato in reati pesantissimi l'organizzazione delle occupazioni, che sappiamo costituiscono una risposta di emergenza ad una condizione di estrema difficoltà economica di migliaia di famiglie in un paese dove non c'è più una politica della casa, non ci sono più, si costruiscono, più che costruiscono, diciamo così, non si recuperano immobili a fini di residenza popolare, siamo in un paese dove la situazione si è complicata. Poi le notizie di un nuovo decreto che aggrava ulteriormente i reati e le pene sugli attivisti sociali ci danno il senso di una linea di intervento, che sicuramente è mossa dal ministro degli interni in carica. C'è una chiara linea di contrasto a tutto quello che è conflitto, a tutto quello che è manifestazioni di dissenso, protesta. Sembra quasi che l'unica protesta che sia riconosciuta come legittima è quella xenofoba in questo paese. Le uniche manifestazioni di dissenso verso le quali c'è tolleranza sono quelle contro i rom, contro i migranti, e mentre i lavoratori, quando si organizzano, anche perché venga rispettata semplicemente la legge, in funzione di tutela di diritti di tutti, vengono, e questo è successo in particolare, diciamo che lo spunto dell'iniziativa ce lo hanno dato i lavoratori di Piacenza, che sono saliti sui tetti per essere stati licenziati in modo discriminatorio da società della logistica, e diciamo che è stata un po' la goccia che fa traboccare il vaso. Ma in realtà le azioni repressive nei confronti di attivisti, di lavoratori, anche di semplici cittadini che protestano per difendere i loro diritti, sono all'ordine del giorno e si sono moltiplicate con il Ministero degli Interni in mano al Presidente della Lega. Per cui questo è, diciamo, il motivo, la denuncia del convegno. Un convegno a cui si affianca appunto un appello che ha già raccolto molte adesioni, diciamo, tra cui quella anche di Abubakar Soumahoro, che è rappresentante sindacale di USB, impegnato nella lotta per i diritti in particolare dei braccianti e contro il caporalato. E partendo dalla sua adesione ti vorrei fare un'altra domanda, cioè quanto influisce anche maggiormente questa penalizzazione della lotta e della richiesta di diritti su chi di diritti già ne ha meno, quindi in questo momento in Italia principalmente sui migranti? Beh, è chiaro che loro sono le figure più esposte, perché si trovano di fronte ad un ricatto che è legato ad una vecchia legge, la Bossi-Fini, che stabilisce questo nesso tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro. Quindi in presenza di condizioni di lavoro in cui il datore di lavoro non rispetta il contratto, si permette di intervenire in modo arbitrario e fuori legge, e il lavoratore si trova di fronte al ricatto che, se perde il posto di lavoro, perde contemporaneamente anche il diritto a rimanere in Italia. È chiaro che questa quindi è una situazione di estrema difficoltà per un lavoratore migrante nel nostro paese. Va a lavorare normalmente, paga le tasse, è in regola con il sistema, però non può rivendicare il rispetto delle regole da parte del datore di lavoro. Nelle campagne questa situazione arriva a livelli schiavistici, perché lì in realtà il contratto non viene proprio preso in considerazione. Essere pagati 2 euro l'ora, ritrovarsi a vivere in baracche con condizioni igieniche amiche da terzo mondo significa essere completamente fuori legge. Le autorità tutte sono perfettamente non solo a conoscenza ma complici di questo sistema, le prefetture, le questure, i datori di lavoro che avrebbero l'onere di occuparsi delle abitazioni oltre che del sistema di trasporto dei lavoratori, e sono tutti al riparo. È un sistema in cui ognuno copre l'altro, e quando Abu e gli altri compagni, i delegati USB hanno cominciato questa battaglia, si sono ritrovati un muro di fronte. Ora, a questo muro se ne è aggiunto un altro, il nuovo Ministero degli Interni del nostro paese. Per la verità un po' lo abbiamo scalfito, perché sono stati costretti, ma ci sono voluti morti, a aprire dei tavoli interministeriali, ad affrontare la questione del lavoro agricolo dal punto di vista dei lavoratori piuttosto che dal punto di vista dei migranti, perché in realtà anche le immagini delle baraccopoli, dei ghetti, delle campagne del sud richiamano alla questione dell'immigrazione, ma noi abbiamo a che fare là con lavoratori che sono determinanti per garantirci il cibo che mangiamo tutti i giorni, e se non ci fossero loro nelle campagne non ci sarebbe nessuno, quindi fanno parte a tutti gli effetti di una fetta, di un comparto molto importante del nostro sistema economico, e che però si avvantaggia del super sfruttamento in cui questi lavoratori vengono mantenuti. Ora, per protestare per questi lavoratori significa esporsi ad una condizione di grandissimo rischio, perché le leggi non li tutelano, anzi sono contro di loro, e in più rischiano anche di essere colpiti dai datori di lavoro che in una forma o nell'altra li minacciano anche in modo violento. Per cui lì, oltre che di caporalato, che è una parola che spesso viene usata anche un po' a sproposito, bisogna parlare di sfruttamento di tutta la filiera del sistema dell'economia agricola, che parte dalla grande distribuzione, quindi i grandi marchi, quelli che fanno pubblicità in televisione e che sono i veri responsabili del super sfruttamento che si produce nelle campagne del nostro paese. Quindi questo è un sistema in realtà che ha bisogno della repressione per garantire un basso costo del lavoro, e il fatto che i contratti, le leggi rimangano assolutamente fuori dalla portata di una fetta enorme di lavoratori. Noi adesso stiamo citando i lavoratori migranti, ma c'è un'enorme fetta di lavoro povero nel nostro paese, che è povero non solo perché non ha sufficienza per arrivare alla fine del mese, ma anche povero di diritti. Non si vede riconosciuto quel minimo di condizioni di dignità sul posto di lavoro, e il sistema di regole è sempre più restrittivo e penalmente di forte svantaggio per questi lavoratori. Quindi nel nostro convegno di venerdì noi vogliamo mettere proprio in evidenza questo: chi sta male in questo paese, chi è in difficoltà, che va a lavorare ma porta a casa pochi soldi e condizioni lavorative sempre peggiori, si trova in una condizione di non poter protestare. L'ultima questione, se mi posso permettere di aggiungere, è per esempio tutto il tema della salute. Protestare perché vengano riconosciute le condizioni minime di sicurezza in un paese dove aumentano i morti sul lavoro, in un paese dove gli infortuni sono all'ordine del giorno, è diventato pericoloso, perché le aziende ti comminano sanzioni pesantissime. Abbiamo un delegato delle ferrovie che recentemente ha denunciato un fatto gravissimo di assoluta noncuranza di rischi pesanti a pochi metri dai binari ferroviari. Sappiamo che le ferrovie sono uno dei settori più a rischio da questo punto di vista, che per tutta risposta, pur avendo fatto questo nel pieno delle sue funzioni di RLS, quindi di responsabile per la sicurezza oltre che di delegato sindacale, si è visto combinare 10 giorni di sospensione con il rischio che l'azienda passi a vie più pesanti, quindi si proponga di licenziarlo, perché sta denunciando una condizione di normalità in cui la sicurezza viene costantemente messa da parte e non è assolutamente una delle priorità dell'azienda. Stiamo parlando delle ferrovie, cioè di una grande azienda del nostro paese con migliaia di dipendenti e che gestisce un settore in cui la sicurezza dovrebbe essere al primo posto, perché ci sono milioni di italiani che viaggiano ogni giorno con i treni e vorrebbero potersi sentire sicuri quando salgono su una vettura e si spostano da una città all'altra.